Welcome to the Menzies Show. Good listening. Bentrovati a tutti da parte del Mangia, eccoci entrati nello spazio quotidiano del Mangia Show in onda su questa emittente radiofonica. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa state ascoltando in questo show. Niente, siete all'ascolto di una trasmissione redatta e curata da Andrea Mangiarotti al secolo Il Mangia. Ho anche un sito internet dove che magari potete approfondire la cosa, vi do subito un indirizzo: www.andreamangiarotti.com. In questo portale potete per l'appunto leggere i miei post o semplicemente, diciamo così, conoscermi in maniera più approfondita. E all'interno di questa trasmissione che cosa ascolterete? Giustamente vi chiederete, vi rispondo immediatamente. Vi propongo una colonna sonora musicale brani tutelati dalle licenze Creative Commons. A differenza della SIAE, le licenze Creative Commons diciamo così mettono a disposizione del cantante delle licenze, per l'appunto, dove è possibile magari, non so, scaricare le loro tracce, ascoltarle, diffonderle in pubblico, oppure anche, come avviene per la SIAE e compagnia bella, le canzoni possono anche non essere scaricate, anzi magari in certi casi viene vietato il download. Comunque le nostre canzoni che ascoltate all'interno di questo programma sono state scaricate liberamente e legalmente dal sito www.yamendo.com. un discorso un pochino contorto, si faceva un po' contorto, va bene, è meglio lasciare spazio alla musica e poi continueremo ancora questo nostro viaggio virtuale alla scoperta di grandi sonorità, ma anche alla scoperta di notizie curiose reperite dal web. La prima canzone è, come sempre, come accade ogni giorno all'interno del Mangia Show, è il brano d'apertura, è dedicato a Dark Light, il nostro amico Graziano Manca al secolo Dark Light, che ci propone un'altra bella traccia, sempre estratta dal suo nuovissimo album disponibile su www.yamendo.com. Dark Light, eccolo che arriva. Oggi abbiamo aperto la grande qua, il Mangia Show, con questa canzone dal titolo Siren from Neptunes, traccia dell'artista piacentino Dark Light. Vi ricordo che questa canzone, come anche la maggior parte dei suoi LP, sono liberamente scaricabili dal portale www.yamendo.com. All'interno del motore di ricerca basta inserire il nome Dark Light scritto in piccolo e come per magia vi compaiono le sue produzioni. Siren from Neptunes, questo bellissimo disco che apre ufficialmente il Mangia Show. Siete sempre con il Mangia. Vi ricordo il mio sito internet www.andreamangiarotti.com per leggere quello che scrivo, semplicemente per riascoltare le trasmissioni del Mangia Show in versione podcast. Vi ricordo che lì all'interno del mio sito è possibile scaricare e anche ascoltare queste trasmissioni che prendono vita all'interno di questa emittente. Prima notizia della giornata: chi di voi non conosce o non ha un account Twitter? Ebbene, nel mese di marzo, il mese proprio in corso, questo social network, questo mini social network, chiamiamolo così, compie 6 anni di vita e gli utenti celebrano la ricorrenza con tanti tweet da tutto il mondo, tipo, non so, Happy Birthday Twitter, eccetera eccetera. Pensate che lo sviluppo del progetto del microblog, questo è il termine corretto, dei 140 caratteri iniziali, è partito il progetto ufficialmente il 21 marzo del 2006, quando l'inventore Jack Dorsey pubblicò il primo tweet, cosiddetto il primo cinguettio. La versione finale è stata invece lanciata e aperta il pubblico il giorno 15 luglio del 2006. Twitter ha da poco raggiunto i 500 milioni di utenti attivi. Vi ricordo che su Twitter ci sono anch'io, basta cercare The Mangia, Te Mangia, oppure Andrea Mangiarotti, nel motore di ricerca, o anche semplicemente su Google, e come per magia vi compare il mio profilo su Twitter, dove è possibile leggere le notizie concernenti il sottoscritto, ma anche concernenti, diciamo così, tutto quello che mi passa per la testa, in special modo cose, diciamo così, carine che mi frullano per la testa. E ora andiamo avanti con un'altra bella canzone qua all'interno del Mangia Show. Passiveness of ordinary life. sempre in vostra compagnia il Mangia, all'interno del Mangia Show, e ora parliamo invece di una notizia che ci giunge sempre dal sito dell'ANSA come quella precedente. Primo messaggio wireless, scusate, spedito con i neutrini. Le particelle hanno viaggiato in 240 metri di roccia, inventano proprio tutte, fanno dei test su ogni cosa. Per la prima volta è stato inviato un messaggio wireless usando i neutrini. Nell'esperimento condotto dalla collaborazione Minerva presso un laboratorio di Chicago è in via di pubblicazione su una rivista Modern Psychics Letters. È stato spedito un messaggio usando un fascio di neutrini attraverso 240 metri di roccia. Il testo del messaggio era semplicemente la parola neutrino, ma sufficiente per dimostrare che utilizzando i neutrini sarebbe possibile comunicare fra due punti della Terra senza usare satelliti o cavi, ha osservato per l'appunto un fisico dell'Università del North Carolina. Ecco, questo è quello che accade, e poi l'articolo continua e si dice: e se si volesse comunicare con questo sistema nello spazio verso la Luna o Marte o gli altri pianeti del sistema solare, e eventuale messaggio di trasporto di neutrini viaggerebbe in modo rettilineo senza impedimenti. La maggior parte dei sistemi di comunicazione di oggi, rilevano gli esperti, funziona spedendo e ricevendo onde elettromagnetiche, ma queste non possono facilmente attraversare tutti i tipi di materia, questo è vero, vengono bloccate per esempio da acqua e montagne. Le nostre attuali tecnologie richiedono complesse e costose attrezzature per inviare un messaggio usando i neutrini, cosicché ciò non è affatto pratico oggi, ha osservato uno dei fisici che ha partecipato al test per l'appunto di questa università americana. E ora si continua con la musica, vediamo se anche noi riusciamo a mandare un messaggio usando per appunto i neutrini, ma penso che non ci riusciamo. Possiamo però ovviare a questo problema ascoltando della grande musica, sempre ovviamente su licenza CCC Creative Commons. Baby, green. More music variety right here on The Listener's Choice. Thank you. Eccoci tornati in onda con questo singolo bellissimo di Zero Project. Il titolo era Appassionata. Vi ricordo che anche per Zero Project, come per la maggior parte degli artisti che ascoltate all'interno del Mangia Show, loro opere sono tutelate dalle licenze Creative Commons, quindi in alcuni casi possono essere anche scaricate tranquillamente dal web. Io vi ricordo il sito www.yamendo.com, dove che attingiamo per la maggior parte dei brani trasmessi in playlist, e anche il disco poc'anzi ascoltato di Zero Project è disponibile in free download, almeno ad oggi è disponibile su www.yamendo.com. Io sono il Mangia, siete sempre all'ascolto del The Mangia Show. Vi ricordo ancora una volta il mio sito www.andreamangiarotti.com. se avete voglia di interagire con lo show, oppure semplicemente se avete voglia di ascoltare il programma in versione podcast, basta cliccare sul link Radio Oltre, poi trovate insomma tutti i podcast del The Mangia Show. Ora parliamo invece di una notizia che ci giunge dalla Luna. Come ben sapete, in passato sono stati fatti vari studi sulla Luna e dimostra il fatto che in passato gli studiosi erano riusciti a vedere e a dimostrare anche che la Luna è stata sconvolta da un asteroide, ha avuto un impatto violentissimo con un asteroide. E diciamo così, lo ha dimostrato una ricerca pubblicata sulla rivista Science e condotta dall'Università Diderot di Parigi. La Luna ha un campo magnetico molto debole, migliaia di volte inferiore rispetto a quello terrestre, ma già dalle prime osservazioni ravvicinate fatte negli anni 60, come detto precedentemente, durante le varie missioni dell'Apollo sono emerse una serie di anomalie. Per esempio, sono state individuate regioni lunari che generano un campo magnetico relativamente intenso. La più vasta di queste strane aree coincide con il più grande cratere da impatto noto, impatto noto nel sistema solare nella regione del polo sud lunare, mentre una serie di isole magnetiche non coincide con nessun evento simile. Attraverso una simulazione, i ricercatori francesi hanno verificato che tutte le anomalie del campo magnetico lunare potrebbero essere spiegate dai detriti rilasciati dall'impatto di un grande asteroide con un'altra grande concentrazione di elementi metallici. La posizione delle isole sarebbe essere coerente con la possibile distribuzione di frammenti generati dall'impatto, ed i residui metallici ricavati sarebbe ancora oggi rilevati come anomalie magnetiche. Ecco perché, diciamo così, la crosta lunare tende ad attrarre su di sé infatti una serie di di scorie e oggetti insomma che si trovano per l'appunto sulla Luna. Questo è dovuto ad un impatto con un asteroide in passato. Speriamo che non ne avvengano altri, soprattutto non solo nelle Lune, ma anche verso di noi. Speriamo. Ora vi regalo questa canzone che a me piace molto, la ripropongo con immenso piacere. Diciamo così, mi ricorda un pochino la musica dei di Rotta su Cuba. Be free. Do it up. Questo è il Mangia Show, la grande musica libera per voi. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da 1999 ad oggi il web ha subito una vera e propria rivoluzione. Mi ricordo c'erano le linee analogiche per passare in questi ultimi anni, in questo ultimo decennio, alla mitica linea veloce, anche se in Italia purtroppo lascia ancora a desiderare. E pensate un po' che nel 2020 saranno 50 miliardi gli oggetti in rete. Vediamo di cosa si tratta, gli oggetti in rete. In pratica potranno diventare 50 miliardi entro 2020 gli oggetti collegati in rete, e dal 2008 il numero ha già superato quello delle persone. Quindi pensate un po', tutti i vari oggetti collegati in rete, non solo personal computer, iPhone, cellulare, eccetera eccetera. Il cosiddetto internet delle cose è già alle porte, un nuovo mondo dove gli atomi sono i nuovi bit, è lo scenario emerso del World Wild Roma, la giornata della cultura digitale organizzata dal Tecnopolo a Roma, per l'appunto. Nel 2008 il numero di oggetti connessi alla rete ha superato quello degli uomini, ha spiegato per l'appunto un ricercatore, uno degli italiani più attivi nel campo dell'innovazione, un ricercatore. E nel 2020 si stima che ne saranno almeno 50 miliardi, un numero tale per cui non basteranno a controllarli. Viene chiamato internet delle cose, il mondo nel quale gli oggetti comunicano tra di loro e si coordinano. Sono il prodotto di una nuova rivoluzione industriale, i cui protagonisti sono i makers, gli appassionati del fare. Grazie alla condivisione e alla passione di milioni di makers, gli atomi si sono trasformati in nuovi bit, ha spiegato Riccardo Luna, curatore della manifestazione, dando il via a una nuova rivoluzione situazione che riguarda gli oggetti dove sono stati aboliti i limiti alla creatività. Grazie ad internet, alla comunità di appassionati sparsi in tutto il mondo e alla nascita dei software hardware aperti come le schede italiane dell'Arduino, la fantasia dei moderni designer non ha quasi più confini, una combinazione che sta rivoluzionando anche il mondo dell'industria, dove un'idea originale può trasformarsi velocemente in successo commerciale. È per questo che la necessità di accogliere queste nuove intelligenze, ha commentato Andrea Mondello, presidente del Tecnopolo, è di favorire il dialogo tra ricercatori per mettere a frutto il patrimonio della nostra creatività. Quindi sbizzarritevi, insomma, collegate più cose possibili al web, non so, magari cellulari, iPhone, eccetera, stampanti, insomma, la vera rivoluzione. Staremo a vedere nel 2020, ovviamente sempre Dio piacendo, se nel 2020 potremo vedere tutte queste rivoluzioni. Ora, scusate, ho pigiato il tastino del mix. Ora, dicevo, si continua con la musica e per voi un brano stupendo di musica lounge. The Mangio Show, the best music for you. in My Mind. Era Elvisa Salinas con questo bel brano all'interno del Mangia Show. Vi ricordo che tutto il programma, come anche le canzoni, andranno in podcast sul sito www.andreamangiarotti, dove potete riascoltare la trasmissione ma anche scaricarvela, e insieme all'ascolto dei brani nel mio post verranno anche citati proprio la playlist della trasmissione con il nome, il titolo e l'interprete, insomma, che ascolterete all'interno del Mangia Show. E niente, quindi anche le informazioni del brano, che vi ricordo sono tutti ovviamente brani tutelati dalle licenze Creative Commons. E giunto a questo punto, inauguriamo, come facciamo spesso all'interno del Mangia Show, il nostro spazio dedicato al cinema con I Love Cinecittà. Ecco qua, ho preso il DVD, lo faccio sentire che l'ho aperto. Ecco qua il DVD di quest'oggi, che analizziamo, così più che analizziamo ci divertiamo a ricordarlo. È Squadra Antitruffa con Thomas Millian, un film del 1977 con Thomas Millian, è un film di Bruno Corbucci con Thomas Millian per l'appunto, Bombolo, e anche l'attore David Hemmings, spero che si pronunci così, che fece anche, se non erro, Profondo Rosso con Dario Argento. Vediamo a grandi linee la trama. La fama del maresciallo Girardi è arrivata fino in Inghilterra. Da Londra, infatti, il detective Robert Claydon è giunto in Italia per chiedergli aiuto. Una colossale truffa è stata ordinata ai danni dei Lloyd di Londra e il governo britannico non sa come venirne fuori. Intanto i truffatori seminano cadaveri in giro per il mondo, ma Girardi, ormai sulle tracce di uno dei colpevoli, va a San Francisco per arrestarlo. Nonostante anche questo indizio venga fatto fuori, Monnezza ha in mano prove sufficienti per arrestare il colpevole. Un DVD che uscì qualche anno fa in una collana per l'appunto dedicata ai film di Thomas Millian, molto bello, probabilmente lo trovate ancora in giro, e niente, presumo sia rimasterizzato, quindi come sentite, qua originale, acquistato nella collana di Thomas Millian. Vi consiglio per le vostre dolci serate, oppure pomeriggi, le mattinate, perché no, questo filmettino molto bello, Squadra Antitruffa. Direi Millian nei panni per l'appunto di Nico Girardi, un poliziotto un pochino, diciamo così, rude, molto molto diciamo così, non terra terra, però simpaticone, dai, che ci diverte con le sue gag esilaranti insieme a Bombolo, che grazie a Millian insomma hanno fatto coppia fissa, e molti di voi le ricorderanno con molto affetto, come li ricordo io d'altra parte, come ricordo Bombolo e anche Thomas Millian, che non è scomparso, sembrerebbe, facendo un discorso così pare che sia scomparso, ma non è scomparso, vivo e vegeto. Invece purtroppo Bombolo ci ha lasciato, però un grande duo comico che è giusto riscoprire, e ci sono questi bei DVD che trovate nella maggior parte delle vostre videoteche del cuore, anche nei centri commerciali che vendono DVD, trovate la maggior parte dei film di Thomas Millian e di Sergio Corbucci, quindi bellissimo veramente. C'è lui in copertina vestito all'americana, insomma, e sotto c'è Lucky Capone, tutto sacrificò alla famiglia, tragicamente colpito da mano ignota, una prece, gli eredi inconsolabili e l'assicurazione pure. Quindi già una battuta anche sul, diciamo così, sulla copertina di questo DVD, direi grandioso. Ora andiamo avanti con la nostra musica e suoniamo sempre musica CCC, musica Creative Commons. Thank you. realtà stavo leggendo la post del profilo Facebook della mia radio, potremmo fare anche il nome della mia piccola web radio, Radio Oltre Po, però visto che ho citato Radio Oltre Po, salutiamo anche gli amici e le amiche di radiostella.tk e anche gli amici e le amiche che magari non si fanno sentire, però utilizzano insomma i nostri podcast da introdurre in playlist nella propria radio, perché è anche possibile, vi ricordo, oltre a scaricare la trasmissione potete anche, se vi va, diffonderla attraverso onde radio sia in streaming che in FM. Ecco, dicevo, avevo ricevuto un'email sul mio profilo Facebook della mia radio, Radio Oltre Po Pavese, e c'era una ragazza che purtroppo mi sfugge il nome perché stavo vagliando la posta dall'altro mio computer che ha un Ubuntu Linux, e mi segnalava per l'appunto un'associazione pavese chiamata Associazione Pavese Parkinsoniani, è un onlus e ha sedi differenti a Pavia, Voghera e Vigevano. Lei mi segnalava per l'appunto la sede di Voghera, sono online proprio sul loro sito, lo potete visitare anche voi all'indirizzo associazionepaveseparkinson.bipworld.it/voghera.htm. E niente, comunque cercate su Google, la trovate agevolmente, Associazione Pavese Parkinsoniani, poi cliccate su Voghera. All'interno del link che riguarda la città di Voghera, per l'appunto, c'è in evidenza la foto della sede che si trova in via Sormani Gavina numero 7, zona Medassino, 27058 Voghera. Ci sono le foto per l'appunto nella sede e la comunicazione, le loro organizzazioni presso la sede, cioè gli orari di apertura, dove si tengono per l'appunto dei corsi di fisioterapia, musicoterapia, eccetera eccetera, per il mese di marzo. E poi ci sono anche all'interno del sito i convegni e i progetti in cantiere di questa associazione, che vi ricordo è un onlus, quindi la diffondiamo e la riportiamo con molto piacere, essendo un'associazione insomma no profit, noi possiamo trasmettere e possiamo citare solo questo tipo di organizzazione, mi sembra anche giusto, se no faremo, diciamo così, saremmo un solito network commerciale, no? che pubblicizza le solite cose, invece è bello dare spazio anche a queste associazioni onlus che si occupano in questo caso di persone che hanno problemi nei movimenti, che sono colpite da queste patologie del morbo di Parkinson, ma non per questo, insomma, uno che è soggetto a questa malattia non possa avere una sua vita, anzi tutt'altro, ed è giusto insomma citare questa associazione che permette a queste persone di vivere meglio la loro situazione. Quindi ricordate, Associazione Pavese Parkinson, la trovate digitandola su Google, e il sito invece è associazionepaveseparkinson.bip.it. comunque cercate su Google e la trovate senza nessun problema. Ovviamente Google è un grande portale che mette sempre in evidenza le cose giuste, insomma, da evidenziare, non le sciocchezze. Cioè, ci sono alcune persone che magari fanno i siti e aggiungono delle parole chiave che praticamente sono dei termini che poi il robot di Google utilizza per piazzare il sito nelle varie posizioni. C'è chi è che magari utilizza parole in maniera disonesta e Google se ne accorge e piazza sempre le cose migliori ai primi posti, come in questo caso questa bella associazione. Andateci a fare un giro. Ora andiamo avanti con la musica, vi regalo un bel brano di General Funk, sentite qua che bella musica che gira all'interno del Mangia Show.

le loro opere su licenza Creative Commons. Noi siamo giunti al termine, ci ritroveremo prossimamente per un altro Mangia Show, sempre su questa radio, su queste magiche frequenze, se ricordavo un tempo. Vi ricordo anche il mio sito www.andreamangiarotti.com, dove la nostra trasmissione andrà in versione podcast. Potete quindi scaricare l'intera trasmissione, e anche oltre alla musica segnaliamo anche le tracce trasmesse in playlist quest'oggi. Statemi bene, noi ci ritroviamo, a Dio piacendo, sempre qua su questa radio, di giorno, di notte, di pomeriggio, insomma quando volete, basta accendere e noi ci siamo. Bye bye, ciao a tutti nel Mangia, alla prossima, ciao ciao. Avete ascoltato il Mangia Show. Tutte le informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Mi vado a mangiare uno yogurt, ciao. Have you heard? The Mangia Show. The Mangia Show. In partnership with www.mangia.com. Is renewed. In the next episode. Thanks for listening.